America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Los Angeles. Mario Platero, trasmetto di nuovo fuori sede, la città degli angeli, devo dire, città straordinaria, bellissima. Ecco, una delle caratteristiche qui a LA è che il tempo non cambia mai, è sempre tiepido e una qualità straordinaria per una città. In questo momento io mi trovo a Rancho Palos Verde, nella parte meridionale, ed è qui al Terranea Resort che ho incontrato Steve Jobs. L'ho incontrato a questa D-Conference, la D8, l'ottava conferenza, avviene ogni anno, sponsorizzata dal Wall Street Journal, organizzata da Walt Mossberg, uno dei grandi guru del giornalismo elettronico informatico americano, e Sarah Swisher, una sua collega che lavora invece qui da San Francisco, dalla California, e devo dire organizzato benissimo. C'è un grande concerto, un concerto di Natasha Bedingfield, appunto la musica di sottofondo che ascoltate e di Natasha, che ha fatto varie performance live, e devo dire una delle più importanti cantanti in inglesi. Di Steve Jobs ve ne avevo già parlato ieri, della sua felicità per l'iPad. Poi l'ho rivisto nella hall dell'albergo, era come un trampolo così, questa poltrona rossa, disponibile, magrissimo, con le ginocchia abbracciate sul petto, che chiacchierava così, disponibile, fragile, perché sappiamo che purtroppo ha avuto una difficile malattia dalla quale sembra essersi ripreso, ma purtroppo continua a essere, come dicevo, piuttosto fragile. Però ragazzi, che carisma, informato al limite del virtuosismo, ha tenuto in pugno letteralmente questa tribù di esperti dell'economia digitale che erano lì pronti ad attaccarlo, a sentire il primo errore che potesse fare. Invece, con grande sicurezza, ha dominato magnetismo e leadership. Ecco, in questo incontro mediato da Walt Mossberg, Walt Mossberg è uno dei guru del giornalismo, del consumer product elettronico americano, comincia ad affrontare la questione che ha superato per capitalizzazione la Microsoft, e lui dice che è una cosa surreale. Ricorda quando a metà degli anni 90 era tornato all'Apple Computer, che lui stesso aveva fondato a metà degli anni 70, e dice che la società era a 90 giorni dal fallimento, una corsa incredibile, con una diversificazione di successo soprattutto nei prodotti al consumo, ma una diversificazione non automatica, non facile. Per esempio, ha raccontato come è arrivato all'iPad, alla famosa tavoletta, e non è vero che è un derivato dell'iPhone, perché in fondo sono molto simili. In realtà è partito proprio dalla tavoletta, e avevano studiato con i suoi esperti l'ipotesi di creare questa tavoletta tattile, dopodiché si sono resi conto che invece poteva esserci uno spazio per il telefono, e quindi hanno archiviato l'iPad, hanno usato tutta la tecnologia, l'architettura che avevano messo a punto per focalizzarla sull'iPhone, e poi quando è stato effettuato il lancio dell'iPhone, boom, sono partiti con la tecnologia iPad. Anni di lavoro, ma un successo straordinario, 2 milioni di pezzi di iPad venduti in meno di 2 mesi, e con orgoglio, devo dire, a chi lo criticava ieri ha risposto, dice: insomma, qui ci attaccano un po' da tutte le parti, però forse faremo anche qualche cosa di giusto, visto che vendiamo un iPad ogni 3 secondi nel mondo. Uno dei suoi messaggi forti è stato sui giornali. I giornali, devo dire, ogni tanto lo ripeto, siamo tutti un po' preoccupati, noi che lavoriamo nei media tradizionali. Ebbene, ci ha dato un'iniezione di ottimismo ieri Steve Jobs, perché ha detto che i giornali non soltanto hanno un futuro, ma hanno una missione, hanno la missione di far funzionare addirittura la democrazia. I giornali nel senso più tradizionale del termine, ha citato alcuni dei giornali più seri americani, il Washington Post, il Wall Street Journal, il New York Times, che secondo lui sono un punto di riferimento per severità rigore, affidabilità e dunque credibilità, e diventano la sponda sulla quale è possibile rimbalzare in modo vero, trasparente, il dibattito politico, il dibattito economico, il dibattito finanziario. E ha detto, cosa che mi ha sorpreso tutti quelli presenti, ho saputo poi che è girata su Twitter a una rapidità incredibile questa sua frase, ha detto: sarebbe un guaio se dovessimo diventare una nazione di bloggers. Il suo consiglio per i giornali è semplice: far pagare il content. Lo si dice da parecchio tempo, per esempio lo stesso Rupert Murdoch, che è poi il gran patron perché controlla la Dow Jones & Company e dunque è qui a sponsorizzare questo evento, e dunque lui stesso ha detto che bisogna far pagare il content. Però una cosa se lo dice Rupert Murdoch, che così tira acqua al suo mulino, una cosa è se lo dice uno dei grandi alfieri di internet e dell'economia digitale, cioè la qualità deve essere pagata, si arriverà a un modello di pagamento, si arriverà a una situazione in cui ci sarà un prezzo accettabile per il consumatore. L'importante, dice, è di non perdere mai di vista l'esigenza diretta del tuo consumatore. Uno Steve Jobs, devo dire, in forma straordinaria, che ha raccontato poi anche un retroscena divertente sulla questione dell'iPhone. Lo ricorderete, l'iPhone rubato. In questo suo incontro ha dato appunto alcune notizie. Ha detto che sull'iPhone rubato non ha alcun rimorso. È stato commesso un furto, è stata commessa un'estorsione. Non può rinunciare ai suoi principi, che sono i principi che lo hanno guidato da quando ha fondato l'azienda, e dunque è giusto, ha detto, che si sia mossa la macchina della giustizia. Non sono cose che vanno prese con leggerezza. Ha raccontato soprattutto un episodio che io non conoscevo, nessuno conosceva, cioè che il giornalista che aveva comprato questo telefono da qualcuno che l'aveva trovato o rubato, questo non è chiaro, in un bar, l'aveva poi portato alla casa della fidanzata, lo aveva agganciato al computer della fidanzata, ed è stata la fidanzata, non l'app, il computer, che ha chiamato la polizia. E poi aggiunge che in questa storia c'è di tutto: c'è il furto, c'è la corruzione, c'è il ricatto, c'è il sesso, e dunque dice: visto che siamo a Hollywood, forse bisognerebbe farne un film. Ebbene, altra notizia di ieri: Warren Buffett prende le distanze dalle agenzie di rating. Ha testimoniato, è andato in audizione alla commissione inchiesta sulla crisi finanziaria del Congresso, e ha detto che una delle più grandi responsabilità sta proprio per la mancanza di credibilità delle agenzie di rating, quelle per la valutazione del credito, che si sono comportate, a suo modo di vedere, male. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa, in questo caso del Pacifico, che vive tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Queste idee e approfondimenti continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno: Paul McCartney alla Casa Bianca. Ve lo avevamo detto la settimana scorsa, avrebbe ritirato il premio del Congresso per i migliori cantanti, e alla Casa Bianca ha fatto una sorpresa prevedibile: ha cantato alla First Lady Michelle. Ed ecco, dedicata a Paul McCartney e a Michelle Obama, Michelle dei Beatles. Michelle, my belle, these are words that go together well, my Michelle. Michelle, da Los Angeles è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.